Agorà in onda. Agorà in onda. Rubrica di informazione giuridica e attualità a cura dell'avvocato Marco Mampieri. Oggi tratteremo, come hai accennato tu, di come festeggiare l'arrivo del nuovo anno in maniera sicura, senza che la festività per il Capodanno possa trasformarsi in qualcosa di negativo. E quindi abbiamo voluto in studio questa mattina, e lo ringrazio per essere qui con noi, il comandante della Polizia Municipale di Palestrina, il commissario capo Marco Di Bartolomeo, che ci spiegherà in questa puntata quali possono essere i comportamenti da tenere per festeggiare in sicurezza, tutelare l'incolumità propria e quella altrui, e su questo fare un piccolo aiuto agli ascoltatori per festeggiare responsabilmente l'arrivo del nuovo anno in maniera sicura, senza arrecare pregiudizi a se stessi e agli altri, come dicevo. E quindi su questo lui ci illustrerà ci darà dei consigli utili dalla sua professionalità e dalla sua esperienza come comandante. E quindi io gli do il benvenuto, innanzitutto lo ringrazio e chiedo di salutare gli ascoltatori. Grazie e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Stefano ci accompagna in questa trasmissione ormai da 12 settimane, come dicevamo. Abbiamo affrontato diversi argomenti, ci siamo occupati del mantenimento come primo argomento affrontato nella trasmissione Agora in onda, abbiamo spaziato. Abbiamo voluto, quindi facciamo un po' anche la sintesi di quella che è la nostra rubrica radiofonica che ogni venerdì ci accompagna ormai dal 6 ottobre, spiegando anche agli ascoltatori qual era un po' cristino la mission di questa trasmissione, di questa rubrica, che vuole essere una rubrica di informazione giuridica e di attualità, quindi parlando di temi complessi, rendendoli in maniera facilmente comprensibili agli ascoltatori, quindi in maniera divulgativa parlare di argomenti che solitamente possono essere più complicati, più complessi, che riguardano la quotidianità e anche l'attualità giuridica, e soprattutto dare gli spunti di riflessione per avere in questa trasmissione far raggiungere gli ascoltatori la consapevolezza per avere un'informazione più attenta rispetto a determinate problematiche. Lo abbiamo fatto da soli, io e Stefano, commentando alcune puntate. Lo abbiamo fatto insieme, come faremo stamattina, insieme ad altri ospiti, proprio perché l'Agorà, intesa come spazio di condivisione, è lo spazio in cui poter affrontare insieme argomenti di riflessione. E su questo l'auspicio anche per il nuovo anno è che i radioascoltatori possano darci anche dei suggerimenti, dei consigli su come impostare anche le trasmissioni future, proprio perché in questo spazio di condivisione, l'Agorà appunto, che abbiamo voluto chiamare in onda perché lo facciamo sull'etere, si possa essere uno spazio di divulgazione. Io mi sto dilungando proprio perché volevamo fare un po' questo oggi, un cappello della situazione, perché giustamente dopo una trasmissione nuova che è nata quest'anno e che quindi aveva bisogno anche di un momento di testatura e di test, l'abbiamo fatto, lo stiamo facendo, stiamo ricevendo dei feedback positivi da parte degli ascoltatori, quindi su questo ci fa estremamente piacere. Un ringraziamento quindi anche al direttore di Radio Onda Libera, che ha dato la possibilità di inserire nel palinsesto radiofonico questa trasmissione, e continueremo per il 2018 su questa strada, continuando ad interessare gli ascoltatori con argomenti particolari che possono riguardare, come dicevamo, il merito giuridico ma anche l'attualità. Parleremo nel 2018 sicuramente della nuova legge finanziaria, del biotestamento, di tutte queste novità che hanno visto la luce con gli ultimi provvedimenti legislativi attuati. Come sapete, ieri il capo dello Stato ha firmato lo scioglimento delle Camere, quindi andremo ad elezioni il 4 di marzo. Da questo punto di vista ci aspetteranno 2 mesi di campagna elettorale, ma noi non ci fermeremo perché avremo la possibilità di affrontare altri argomenti insieme in questa rubrica. Siccome oggi vogliamo fare una puntata leggera, molto leggera, perché poi parleremo appunto di quello che è i festeggiamenti di fine anno, sciogliere le Camere in un periodo di gelo, insomma, è tutto dire. Bellissima questa. Sicuramente stamattina, anche venendo in radio, stamattina era impossibile anche aprire la porta della macchina, c'era i cosiddetti cappotti di isolamento, era stata fatta naturale con il ghiaccio, strade poi lasciamo stare. di tutto di più. Ne potremmo parlare con il commissario delle strade, anche, vedi? Esatto, perché oggi un argomento di attualità. Ci sono grandi problemi di viabilità, cioè, non per colpa del comandante, per l'amor del cielo. Però, insomma, oggi. Abbiamo avuto questa leggera nevicata che ci ha accompagnato nella giornata di ieri, che però ha portato poi con le basse temperature di questa notte a una piccola gelata. Come dicevi tu, le Camere sono state sciolte dal Presidente della Repubblica in un momento un po' di gelo, tra virgolette, ma il governo è in carica, quindi da questo punto di vista, come diceva lo stesso Presidente del Consiglio, per gli affari correnti sarà ancora chiamato ad adottare provvedimenti fino a quando... Dopo le elezioni, chissà come andrà con la nuova legge elettorale, che magari commenteremo anche per dare maggiore informazione agli ascoltatori, magari durante questi mesi di campagna elettorale, per far capire un pochettino le novità che sono state introdotte con il cosiddetto Rosatellum. Vedremo quello che uscirà dalla consultazione elettorale dalle urne del 4 di marzo. Nel Lazio saremo chiamati anche a votare per le regionali, quindi ci attende un periodo abbastanza attivo dal punto di vista della propaganda, tra virgolette, politica, e quindi saremo attenti anche ad ascoltare le voci dei protagonisti. Rosatellum, che non è un vino assolutamente, però può sembrare un vino, si festeggerà il 31 con l'apertura della bottiglia di spumante. Si faranno sicuramente dei botti con le bottiglie, sono autorizzati. Attenzione a chi le puntate, però, perché a volte arriva anche il tappo e fa male. E prima di festeggiare, ricordatevi però che dal 1 gennaio ci sarà un aumento delle tariffe di luce e gas. Ecco, questa praticamente è il benvenuto. Il botto di fine anno. Il botto d'inizio anno, questo. Beh, ecco, consigliamo ai radioascoltatori sicuramente, e questo lo faccio anche per un pochettino far entrare nell'argomento il comandante, festeggiare con lo spumante italiano, sicuramente su questo anche il comandante sarà d'accordo con me. Assolutamente sì. Sempre meglio il prosecco che lo champagne. Questo è poco decisamente. O direi uno spumante metodo tradizionale italiano, certo, che ormai ha raggiunto livelli importanti dal punto di vista della qualità enologica. Ognuno sceglie la bottiglia che vuole per festeggiare, ognuno sceglie i botti che vuole per festeggiare, e lì bisogna... No, adesso torniamo un attimino, facciamo un attimino i seri, perché dobbiamo parlare proprio di questo. Il 31 si può festeggiare, si deve festeggiare, ma bisogna farlo con la testa, come diceva Totò, sul collo. Esatto. Adesso diciamo introdurremo l'argomento. Abbiamo detto come festeggiare l'arrivo del nuovo anno senza sorprese, quindi come utilizzare il materiale pirotecnico in maniera sicura. Lo chiediamo in questa prima fase della nostra trasmissione al comandante della Polizia Locale di Palestrina, che ci farà un piccolo ci darà dei piccoli suggerimenti su come affrontare in sicurezza il festeggiamento per l'arrivo del nuovo anno. Prego, capitano. Sì, grazie Marco. Allora, innanzitutto ripeto buongiorno a tutti, e come diceva Stefano, sì, festeggiare va bene, ma bisogna farlo utilizzando la testa. Quindi andiamo ad illustrare quelle che potrebbero essere, anzi che possono essere, delle piccole e semplici regole da seguire per l'acquisto e lo sparo o l'accensione di fuochi artificiali. Innanzitutto, quando decidiamo di acquistare questi prodotti pirotecnici, dobbiamo tenere bene a mente che si tratta di prodotti contenenti polvere da sparo, prodotti quindi esplodenti e per questo potenzialmente pericolosi. Per acquistarli dobbiamo quindi rivolgersi ai rivenditori autorizzati ed utilizzare tutte quelle accortezze che il caso richiede. Esatto, si tratta sempre di materiale contenente materiale, cioè sono formati da materiale esplosivo, quindi debbono essere sicuramente attenzionati. Quindi, sono tutti potenzialmente pericolosi, quindi, non esistono fuochi d'artificio che non contengono polvere da sparo e che quindi non siano pericolosi. Quindi diciamo, la nozione generale è che tutti i fuochi pirotecnici contengono materiale esplosivo, quindi sono potenzialmente tutti pericolosi. All'interno si sono divise in fasce, no? Giusto? Sono esattamente, ma esistono anche delle metodologie per riconoscere i fuochi d'artificio. Infatti tutti i prodotti pirotecnici autorizzati devono avere sopra di essi un'etichettatura che deve contenere innanzitutto la marcatura CE, che è quindi la dichiarazione di conformità, ovvero gli estremi del provvedimento del Ministero dell'Interno che autorizza la vendita di questi fuochi, pur non essendo marcati dalla marcatura CE. deve essere indicato il nome del prodotto, la ditta produttrice, il paese di produzione, l'importatore, la categoria, le principali caratteristiche costruttive, tra le quali anche il pesonetto di materia esplodente contenuto all'interno, e soprattutto una descrizione chiara e completa delle modalità d'uso, cioè noi che siamo gli utenti finali dobbiamo sapere come andare ad utilizzare un prodotto esplodente comprato presso un rivenditore ufficiale. Quindi, scusami, quando si vuole acquistare un prodotto esplodente anche per le festività, soprattutto in questo periodo per le festività di fine anno, bisogna guardare ad alcune caratteristiche che devono bisogna avere piccole accortezze e guardare bene la confezione che stiamo acquistando, perché tutti i prodotti che sono privi di etichetta regolamentare non sono in regola e sono quindi da considerarsi prodotti proibiti. Quindi un primo punto che i consumatori, gli ascoltatori devono guardare quando acquistano, si recano in un negozio autorizzato per la vendita di questi materiali, è quello di vedere innanzitutto l'etichetta e vedere se in primis c'è l'etichetta del marchio CE. Assolutamente, anche se poi dobbiamo anche dire che la contraffazione oggi ha raggiunto livelli tempo fa inaspettabili e quindi anche questo potrebbe non giocare a nostro favore. Per questo motivo dobbiamo per forza di cose acquistarli all'interno di rivenditori ufficiali e autorizzati. I rivenditori ufficiali e autorizzati è una cosa molto importante, non fidatevi della persona che vi dice non ti preoccupare, questo è tranquillo, perché tra le altre cose c'è anche da considerare il prodotto autocostruito, pericoloso per il semplice fatto che a volte la miccia che viene accesa non è quella miccia che viene utilizzata regolarmente, ma una miccia molto veloce e potrebbe crearvi problemi, insomma, agli arti o se non cose molto più importanti. È corretto, Stefano, hai parlato di prodotto autocostruito ed è proprio questo che voglio dire, è severamente vietata qualsiasi manipolazione dei giochi acquistati, quindi spostare la polvere da sparo, aumentarla, diminuirla è assolutamente vietato per due motivi: innanzitutto perché non dimentichiamo che in ballo c'è la nostra salute, certo, e secondo poi perché il reato integra anche il reato di illecita fabbricazione di prodotti esplodenti, certo. Quindi non solo rischiamo la nostra salute, la nostra vita, perché spesso succede, ma andiamo a rischiare anche di incappare in procedimenti penali che insomma sarebbe meglio evitare soprattutto all'inizio dell'anno, insomma. Anche perché dovrebbe essere una festa e forse non è il caso proprio di rischiare personalmente non soltanto la propria incolumità ma anche, come diceva il comandante, anche la fedina penale per un atteggiamento contrario a quelle che sono le disposizioni normative. È importante invece che si festeggi in maniera responsabile, aprendo la bottiglia di spumante, sì, che sicuramente fa il botto, ma utilizzare anche quel materiale pirotecnico che invece sia riconosciuto legale dal punto di vista normativo, proprio perché non vogliamo fare distinzione, stiamo parlando ovviamente di possibilità di acquistare materiale legale. Da questo punto di vista stiamo dando agli ascoltatori dei consigli su come individuare al meglio, una volta recateci nell'apposito negozio, quelli che possono essere i materiali pirotecnici liberamente vendibili e che quindi possono essere acquistati con tranquillità perché hanno, come dicevi tu Stefano prima, quella sicurezza che invece il materiale autoprodotto non può avere e che invece può cagionare danni anche all'incolumità fisica propria e quella delle altre persone. Siamo qui con stiamo dando dei consigli, Stefano, su come festeggiare possibilmente il Capodanno in tutta sicurezza, divertendosi, facendo i balli e avendo la possibilità di salutare l'arrivo del nuovo anno in maniera più sicura. Lo facciamo questa mattina avendo in studio il comandante della Polizia Municipale di Palestrina, il commissario capo Marco Di Bartolomeo, che già nella fase precedente alla pubblicità ci ha illustrato alcuni comportamenti che possono essere tenuti per soprattutto quando si acquista il materiale pirotecnico. Adesso ci ritorneremo sopra e quindi cercare di fare anche in questo nostro piccolo spazio del venerdì mattina un po' di prevenzione rispetto a quello che può essere una festa, sì, ma che, come citando le fonti della Polizia di Stato, spesso si trasforma in una guerriglia urbana. Volevo soltanto, prima di lasciare la parola al comandante, citare alcuni numeri che la Polizia di Stato ci fornisce rispetto a quelle che sono le festività di Capodanno e soprattutto gli effetti che queste festività portano, soprattutto quando si utilizza del materiale pirotecnico in modo non responsabile. Infatti l'anno scorso scorso ci sono stati circa 190 feriti a fronte dei 253 dell'anno precedente, e sono aumentati però anche i feriti gravi, quindi sono diminuite il numero assoluto, però sono aumentati maggiormente il numero dei feriti gravi, quindi che sono passati da 12 a 16, per cui ci accingiamo a festeggiare l'arrivo del nuovo anno, però poi effettivamente ci portiamo delle problematiche importanti, perché l'utilizzo sconsiderato di materiale pirico in maniera non legale può determinare problemi di salute, non solo di salute personale, ma anche di danneggiamenti a cose o persone, e questo implica una sfera di carattere penale. Quindi stiamo qui per fare un po' di prevenzione, ci associamo a quelle che sono le campagne della Polizia di Stato su questo, e quindi vogliamo promuovere anche da questo nostro punto di vista, da questo nostro spazio radiofonico, continuare a fare prevenzione anche su questo tema. Come dicevo, lo facciamo insieme al comandante della Polizia Municipale, della Polizia Municipale, che ci dà alcuni suggerimenti utili proprio per festeggiare in maniera tranquilla l'arrivo del nuovo anno. Quindi, capitano, comandante, ormai ti chiamo capitano, comandante. È indifferente. Allora, dicevamo, i prodotti esplodenti sono tra l'altro venduti per fasce di età e per titoli. Possiamo acquistare prodotti esplodenti già a 14 anni, ma questi prodotti possono essere acquistati soltanto se appartenenti alla categoria 1 europea, ossia quei singoli petardi contenenti non più di 2,5 mg di prodotto esplodente. Su questo rifacciamo un passettino indietro, perché la normativa sul materiale pirico è disciplinata da una normativa europea recepita da una legge italiana e soprattutto dall'articolo 82 del testo unico di pubblica sicurezza, che disciplina, questa volta parliamo un po' in maniera tecnica, le categorie degli esplodenti, del materiale pirico, dividendoli in fasce. Ci sono delle fasce, come diceva il comandante prima, che possono essere acquistate liberamente nei supermercati, nelle tabaccherie. Ecco, ci dirai a quale appartengono queste, senza addentrarci nello specifico, ma dando, ecco, appunto agli ascoltatori alcune nozioni per essere più tranquilli nel momento in cui vanno ad acquistare questi prodotti. Quindi vengono divise per categoria quelle che possono essere acquistate liberamente. Quali sono? Allora, innanzitutto occorre precisare che all'interno delle varie categorie poi ci sono delle lettere che diversificano i prodotti esplodenti anche se appartenenti alla medesima categoria. La quinta categoria, ad esempio la lettera E, sono quei piccoli petardi di cui parlavamo poc'anzi, che contengono non più di 2,5 mg di fulminato d'argento, che in realtà è la polvere da sparo. Quelli sono vendibili anche ai 14 anni, purché, tant'è vero che ha l'obbligo il venditore di acquisire il documento di identità della persona che sta acquistando il prodotto, proprio al fine di verificare l'età dell'acquirente, insomma. Dicevamo, questi sono acquistabili anche presso tabaccherie o supermercati, sono le cosiddette micette, i raudi, questi piccoli prodotti che contengono poco materiale esplodente. Occorrono invece 18 anni per quei materiali, perché tutto è legato poi alla quantità di polvere da sparo, quindi a seconda del peso della polvere da sparo il materiale può essere venduto o meno a un 14enne, a un 18enne, oppure è necessaria l'autorizzazione di pubblica sicurezza. Quindi per fasce, quelli che solitamente ci fanno da sottofondo spesso nei periodi che si avvicinano al Capodanno sono quei materiali che vengono venduti anche ai 14enni, quindi dicevamo le micette, raudi, che possono essere venduti proprio perché hanno una modica quantità di polvere da sparo e che quindi possono essere venduti liberamente, previo ovviamente esibizione da parte dell'acquirente del documento di riconoscimento. Questo è importante, perché anche i genitori che... Ecco, qua bisogna aggiungere una cosa, no? Poi c'è sempre qualche furbo che se lo fa comprare dai genitori. Questo purtroppo sì, andrebbe evitato, proprio per evitare, ricordiamoci sempre, questo è quello che raccomando sempre ai ragazzi, c'è in ballo la nostra salute, quindi evitiamo di fare cose che possano sembrare furbe, perché poi in realtà possono ritorcersi contro di noi. Esatto, perché magari è un uso che abbiamo fatto anche noi, magari che siamo qui in studio, abbiamo utilizzato magari questi, però ecco, farlo in maniera responsabile, perché magari lo stesso petardo messo sotto una macchina, sotto altre, può cagionare anche dei danni abbastanza importanti. Quindi bisogna avere sempre un corretto utilizzo, perché sono materiali che possono portare a possono cagionare danni, e quindi da questo punto di vista risultare impegnativi sia dal punto di vista della gestione, ma anche e soprattutto quando esplodono, localizzarli bene. Diciamo che infatti spesso aggirare la norma è semplice, no? Però poi ancora più spesso aggirarla è pericoloso. Quindi diffidiamo da facili acquisti o... Dicevamo poi inoltre, oltre a quelli possibili che si può acquistare, che si possono acquistare da 14 anni, è possibile acquistare altri prodotti anche da 18 anni in su, cioè prodotti che contengono già una quantità più elevata di polvere da sparo, intorno ai 150 mg. Di fuochi d'artificio se ne possono tenere, acquistare e detenere fino a 5 kg. Oltre i 5 kg va fatta tra l'altro la comunicazione all'autorità di PS, alla Questura di Roma in questo caso, o al commissariato più vicino. Non si possono comunque detenere più di 25 kg di fuochi d'artificio, quindi consiglio a tutti, per evitare, perché non tutti conoscono le norme e spesso rimane difficile comprenderle anche a noi che lo dobbiamo applicare, non acquistate più di 5 kg per evitare di non stare nel dubbio se dover fare o meno la comunicazione all'autorità del PS o altro. Quindi insomma, quando invitate a casa le persone per festeggiare insieme il Capodanno, questo è rivolto a chi ha maggiore degli anni 18, raggiunto la maggiore età, cercate di seguire i consigli che ci sta dando il comandante, certo, perché effettivamente non serve acquistare magari più di 5 kg di materiale esplodente, perché potrebbe portare poi, oltre alla segnalazione obbligatoria, anche altre conseguenze. Quindi sempre meglio acquistare 10 kg di fettuccine che 5 di... Assolutamente. Una bottiglia di materiale esplodente, magari una bottiglia di spumante in più, anche se poi chi si deve mettere alla guida deve sapere che non deve eccedere il limite anche in quello dell'etilometro, però effettivamente no, ma infatti ci troviamo in una situazione dove tutto si può fare ma limitatamente. Oh, limitatamente, perché praticamente già io lo so che c'è qualcuno che sta lì a chiedersi, lo sentiamo in giro, no, ma come, l'alcol fa più male di tante altre cose eppure lo vendono liberamente. Sì, appunto, siamo in una situazione di libertà, ognuno è libero di fare quello che vuole, ma se è responsabile forse non beve una bottiglia di vino oppure di whisky e cose varie, ne assaggia un goccetto e si sta buono buono. Oppure decide saggiamente di farsi accompagnare. Accompagnare, appunto. Ecco. Cioè, queste sono le soluzioni, no? Anche le cose, i cosiddetti botti di Capodanno, non è che non li dovete acquistare, li potete acquistare nei negozi autorizzati e dovete soprattutto rispettare le norme di sicurezza. Questa è la cosa principale per voi che accendete la miccia e per quelli che vi stanno vicini, soprattutto per le macchine parcheggiate anche. Ah, ma bisogna anche mettere questo qua. Dicevamo, 18 anni occorrono invece per gli artifici di categoria 2, parliamo sempre di categorie europee, che sono quei singoli artifici scoppianti o fischianti con una carica di effetto non superiore a 150 mg. Per quanto riguarda invece la terza categoria, quella è sempre, parliamo di categoria europea, perché ricordiamo che con decreto del Ministro dell'Interno è stata recepita una norma europea che ha riclassificato i fuochi d'artificio e li ha equiparati alle categorie che sono oggi europee, diciamo valide in tutta la comunità europea. Occorre addirittura il possesso del porto d'armi per le categorie terza, quindi per tutti quei fuochi d'artificio che appartengono alla terza categoria non è necessario, non è sufficiente avere 18 anni o 14, ma è necessario avere addirittura il porto d'armi. Sono ad esempio le bombe aeree cilindriche o sferiche, le batterie, i razzi, eccetera. Che speriamo non vengano esplosi durante... Ma io spero che... non voglio auspicare che non vengano acquistate perché non me ne vogliano poi i rivenditori, però diciamo che andiamo sul pesante, sono cose pericolose che vanno utilizzate con molte attenzioni e soprattutto da persone qualificate a farlo. Anche perché chi utilizza questi materiali deve avere una licenza, oltre al porto d'armi, come in questo caso dicevi. Un'abilitazione prevista dal Testo Unico di Legge Pubblica Sicurezza. Esatto. Così come il porto d'armi bisogna averlo anche per le pistole e i fucili. Ecco, soprattutto non utilizzarli per festeggiare il Capodanno, questa è una raccomandazione. Noi stiamo facendo questa trasmissione proprio cercando di illustrare agli ascoltatori come festeggiare responsabilmente, non come vietare. Come dicevi tu Stefano, non è che non si possono acquistare, però bisogna farlo sempre utilizzando la testa e quelle regole di diligenza che debbono contraddistinguere le persone di buon senso, quindi rispetto agli altri. Abbiamo visto che quest'anno esistono delle bombe, del materiale autofabbricato che può essere quello con tram campo, quindi questi invece le vanno, bombe di Maradona maggiormente, sì, che... oggi hanno anche altri nomi, magari come il presidente coreano, per cui ecco, su questi come diceva prima il comandante bisogna diffidare, perché sono oltre ad avere una carica di polvere da sparo molto più elevata, sono anche non sicuri, perché non realizzati in maniera, perché spesso autocostruiti, quindi su questo bisogna diffidare. E ricordiamo a tutti, insomma, di vigilare, soprattutto ai genitori, di vigilare proprio su quello che i figli acquistano, anche nelle tabaccherie, perché possono essere acquistate, ma non esagerare nell'utilizzo di questi strumenti. Rapportando il tuo esempio, Marco, a una realtà più prossima alla nostra, io voglio sottolineare anche che è molto pericoloso anche il semplice raudo che acquistiamo facilmente, che abbiamo tutti utilizzato da 18 anni in su, anche accoppiare due raudi come si usa fare spesso, certo, diventa pericoloso, perché non si riesce più a comprendere quale può essere la capacità esplosiva e i danni potenziali che quel tipo di prodotto autocostruito possa poi cagionare. Eh sì, perché il prodotto autocostruito poi non è soltanto quello che vediamo in televisione o che sentiamo dalla cronaca, ma può essere anche questo piccolo congegno, chiamiamolo così. Ed è pericolosissimo, quindi assolutamente non fare. Soprattutto perché magari parliamo di materiale acquistato liberamente, che però accoppiato può diventare altro rispetto a quello per il quale può assumere la pericolosità di un prodotto, ma che magari è, per cui magari, per il cui utilizzo è magari necessaria l'autorizzazione del PS. Ecco, siccome noi stiamo facendo prevenzione, allora ti chiedo anche come la polizia municipale in qualche modo può essere d'ausilio per il controllo del territorio, visto che è il ruolo specifico anche che ha sia come polizia amministrativa ma anche come polizia giudiziaria. Sulla scorta di alcune circolari della prefettura e del ministero stiamo facendo dei controlli a campione e alle attività che sono rivenditori ufficiali di questi tipi di prodotti, proprio al fine di verificare che all'interno dei negozi vengano venduti esclusivamente prodotti con marcatura CE, ovvero con protocollo e data di emissione dell'autorizzazione ministeriale che ne autorizza la vendita. Quindi state proprio per tutelare la salute del consumatore, state facendo questi controlli anche nel nostro territorio, in questo caso il territorio di Palestrina, che è di tua competenza, state facendo dei controlli proprio per fare in modo che il festeggiamento venga fatto secondo le regole. Diciamo che non aspettiamo la comunicazione della prefettura e del ministero, perché ormai è una cosa che abbiamo messo a regime e che ogni anno controlliamo, anche per, ripeto, come dicevi tu giustamente, per tutelare in qualche modo il consumatore dall'acquisto di prodotti non autorizzati. Esistono sempre, sono state emesse da parte di alcuni sindaci delle ordinanze che vietano l'utilizzo dei cosiddetti botti di Capodanno. Ci vuoi dire se nella tua esperienza, almeno anche in questo caso nella città che rappresenti, è stata adottata o meno questa ordinanza, o come funziona in generale? Il Comune di Palestrina ha deciso di non adottare ordinanze in tal senso, ed è una scelta che condivido pienamente, perché non è necessario rimarcare ciò che è già stabilito dalla legge, e quindi il Comune non ha inteso limitare la vendita e quindi limitare anche il guadagno di coloro che ne sono rivenditori ufficiali e autorizzati, perché ripeto, c'è una norma nazionale, una norma europea che vieta determinati tipi di comportamenti e determinati tipi di vendite, quindi andarlo a rimarcare con un'ordinanza potrebbe essere ridondante e magari mettere in condizione di non guadagnare chi magari decide di farlo perché insomma ne è autorizzato. Quindi in questo caso la tua presenza qui quest'oggi è anche quella di fare prevenzione, no? Dare la corretta informazione, quindi esistono le leggi, esistono le norme, non si vieta a priori, a prescindere, ma bisogna attenersi a dei comportamenti corretti da questo punto di vista. Quindi in conclusione, se ci vuoi dare qualche raccomandazione finale, diciamo così, per i nostri ascoltatori, perché possano festeggiare al meglio l'arrivo del nuovo anno. Allora, giochiamo e divertiamoci responsabilmente per la notte di Capodanno, evitiamo di esporre se stessi e gli altri a inutili rischi, evitiamo quindi di sparare in pubblico o soprattutto verso il pubblico, compriamo soltanto prodotti correttamente etichettati riportanti quindi il marchio CE e le istruzioni d'uso, e verifichiamo soprattutto, questo è molto importante, che non vi siano ostacoli tra la proiezione dei fuochi d'artificio e il luogo di sparo. Cioè, quando spariamo accertiamoci che magari sopra di noi non ci sono fili della luce o energia elettrica o telecom. Perché questo? Perché magari un fuoco d'artificio può essere deviato e può raggiungere una proiezione che è inaspettata e che quindi può essere potenzialmente pericolosa. Beh, con i consigli del comandante ci accingiamo a salutare anche noi i radioascoltatori, augurando a loro i migliori auspici per il nuovo anno, il 2018, che ci attenderà anche con la trasmissione Agora in Onda. E quindi Stefano, io con il sottofondo musicale che ci hai messo per salutare l'arrivo del nuovo anno, ti ripasso la parola, non prima ovviamente di aver fatto gli auguri e ringraziare il comandante per la sua presenza qui quest'oggi. Lo chiameremo nuovamente a parlare di altri temi durante il 2018, quindi lo sai già, dovrai sicuramente intervenire. Da questo punto di vista, però, io invece volevo salutare i radioascoltatori e fare porgere i migliori auguri e ritrovarci qui con Agora in Onda il venerdì mattina, a partire in questo caso dal 12 di gennaio, per continuare questa nostra chiacchierata sulle frequenze di Radio Onda Libera. Grazie Marco, io ti ringrazio naturalmente per essere stato con noi in queste 12 puntate, ricominceremo l'anno prossimo a gennaio, esattamente il 4 gennaio. 12. Ah, il 12? No, il 4 no, perché c'è la Befana, giusto? Esatto. Sei impegnato, stai lì a riparare. Esatto, sto preparando le scope. Allora, festeggiate con leggerezza, ma soprattutto festeggiate con responsabilità, così come ha detto il commissario capo della Polizia Locale di Palestina, Marco Bartolomeo, che ringrazio, che ringrazio per essere stato con noi. Mi viene in mente Di Bartolomei. Agostino Di Bartolomei. Capito, ecco perché faccio le papere. Vabbè, allora vi ringrazio entrambi e vi auguro naturalmente un felice anno a tutti voi che lavorate e per naturalmente mantenere l'ordine nel territorio comunale e non solo. Ringrazio tutti i nostri radioascoltatori, auguro buon fine anno e soprattutto felice inizio 2018. È tutto per oggi e naturalmente ancora una volta ragionate su quello che fate. Voti sì, ma con intelligenza. Ok? Grazie, buon anno a tutti. Ciao, buon anno a tutti. Ciao ciao. Agora in Onda. Agora in Onda. Rubrica di informazione giuridica e attualità a cura dell'avvocato Marco Mampieri.